Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Detriti da demolizione trasformati in pannelli per ricoprire facciate, per realizzare costruzioni a secco. E poi un sistema di compostaggio di comunità per trasformare in compost i rifiuti organici su piccola scala. Sono due delle filiere innovative individuate nel corso del progetto Low Waste, mirato proprio a individuare nuove filiere che siano in grado di restituire nuova vita a materiali che altrimenti verrebbero distrutti oppure smaltiti. Un progetto che ha visto coinvolto il comune di Ferrara e vari partner privati, come abbiamo visto ieri, tra cui la cooperativa sociale Città Verde, diretta da Giorgio Rosso, che è tornato a trovarci. Buonasera Rosso. Buonasera, buonasera. Allora, questa sera parliamo delle altre due filiere che avete individuato nel corso del progetto Low Waste, che sono quella, diciamo, degli arredi da giardino, forse degli arredi un po' in generale, e soprattutto quella dei tessili da sala operatoria. Ci dica velocemente intanto con gli arredi da giardino che cosa fate. Storicamente la nostra cooperativa lavora nella manutenzione di aree verdi, quindi stiamo parlando di panchine, cestini, aree gioco, eccetera. In molti casi si arriva a fine vita di queste aree gioco e diventa difficile trovare pezzi di ricambio. Quindi l'idea è stata: ma perché buttare via tutto questo materiale? Cerchiamo di rifarne nuovi arredi, nuovi manufatti, e così, anche grazie a questo progetto, abbiamo iniziato a studiare anche il sistema di certificazione delle dichiarazioni di conformità per poter dare nuova vita sostanzialmente a questi materiali. Abbiamo già iniziato anche la vendita. Ecco, sì, perché poi rinascono sotto forma di nuovi giochi, di nuove panchine, di cose anche un po', diciamo, artistiche. Ecco, poi veniamo invece a questi tessuti ospedalieri, e in particolare quelli usati in sala operatoria. Un solo ospedale ne produce tonnellate, comunque, se ho capito bene, all'anno. Diciamo che noi abbiamo avuto, diciamo, a Ferrara esiste un'azienda piuttosto grossa che fa il lavanolo, quindi rifornisce gli ospedali. Poi per normativa questi tessuti tecnici, tessile ospedaliero, ma in particolare per le sale chirurgiche, dopo tanta lavaggi non può più essere riutilizzato. Quindi devono essere ritirati da chi li produce, immagino. Esatto, ritirati da chi li produce e poi fino ad ora smaltiti. Parliamo di materiali con caratteristiche? Parliamo di materiali, diciamo, a base di gore, materiali antistatici, quindi con fibra di carbonio tessuta e di microfibra. Quindi materiali tecnicamente importanti, quindi anche con grammature leggere, insomma, sono materiali che tecnicamente... Che hanno prestazioni tecniche assolutamente straordinarie, che normalmente però vengono buttati. E qui invece arrivate voi, o meglio, arriva in questo caso un'altra cooperativa, ma insomma, sì, una vostra parente. Un'altra cooperativa, perché diciamo il primo problema che ci si è posto è come far uscire dal ciclo dei rifiuti questo tipo di materiale. Quindi per fare questo in Italia, ma anche in Europa, esiste, diciamo, una situazione impiantistica per la quale il tessuto entra come rifiuto, viene igienizzato, comunque ne viene controllata l'igienizzazione, poi esce come materiale. A questo punto può essere utilizzato per produrre, diciamo, nuovi riprodotti. Nel caso del progetto, la prima cosa che viene in mente sono i piccoli gadget, però ci siamo evoluti, siamo passati alle borse, poi diciamo ai due aspetti che sono più interessanti, che sono l'abbigliamento d'outdoor e le scarpe. Per le scarpe in particolare, questi due tipi di tessuto sono interessanti sia per i rivestimenti della tomaia, ma anche per i rivestimenti interni, in particolare microfibra internamente, e il gore, diciamo, esternamente, con le caratteristiche. Ieri abbiamo spiegato l'importanza di queste filiere per il terzo settore, invece vorrei che mi facesse capire qual è stato il ruolo questa sera della pubblica amministrazione. Beh, in questo caso è stato un ruolo assolutamente positivo. Ha consentito soprattutto la creazione di tavoli di incontro fra quello che poteva essere il proprietario del rifiuto, noi che siamo i trasformatori, diciamo, di mezzo, ma anche imprese che potevano fare sia la trasformazione ma anche essere gli acquirenti finali dei riprodotti. Oltre al fatto che la pubblica amministrazione ha messo quindi in connessione domanda-offerta, l'altra cosa che ha fatto, diciamo, anche internamente, ha cercato quali erano i punti deboli o le possibilità per la pubblica amministrazione per dare il via, per fare da volano. Parliamo del green procurement, per esempio, il fatto che una pubblica amministrazione si dia dei vincoli e magari preferisca i materiali riciclati nei propri acquisti a quelli che non lo sono, o riuso addirittura al riciclo. Diciamo forse che le amministrazioni locali, in particolare comuni per esempio, hanno l'interesse immediato perché sono quelle che fanno pagare la tassa sui rifiuti, anche la territorialità giusta per essere al centro di questi progetti, è vero? Assolutamente, i comuni o le associazioni di comune, ed è molto importante che anche la multiutility che si fa carico della gestione dei rifiuti sia coinvolta in questo tipo di processi, questo è assolutamente necessario. Grazie Giorgio Rosso. Grazie a voi e buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.